Allora, parleremo insieme adesso di un libro di Raymond Roth, I cercatori di Dio. E questo è un libro che ci è giunto per vie traverse. Stava a casa nostra Tiglio, che si occupa di alchimia, adesso è partito per l'Australia, e proprio la sua presenza qua ha stimolato molta riflessione sia in me che in altri, e quindi Gianluca ha portato un libro ad Attilio, che è proprio questo, Remo Rotti, Cercatori di Dio, dove viene espresso il punto di vista junghiano sull'alchimia e sulle religioni in generale. E questo testo è veramente interessante dal nostro punto di vista perché è fatto da uno psicologo junghiano. Ora, in questo periodo noi stiamo occupandoci del pensiero junghiano, stiamo leggendo. Sia io che te, no, Carolina, tu stai leggendo I simboli di Jung, il libro sui simboli, e io sto leggendo due libri, invece, altri libri di Galimberti e di Zoie, che sono entrambi junghiani e che sono contemporanei. Quindi, bene, questo libro qua, I cercatori di Dio, viene proprio a fagiolo in questo momento, perché esplora delle componenti del pensiero a cui noi normalmente non siamo attenti, cioè completamente presenti. Allora, innanzitutto dico qual è il punto di vista da cui parte l'autore. Dunque, l'autore dice, riferendo il punto di vista di Jung, allora Jung dice che nell'essere umano abbiamo questi due livelli, quello della coscienza e quello dell'inconscio. Vabbè, questo lo diceva già Freud, ma l'inconscio junghiano è molto diverso da quello di Freud. L'inconscio di Freud è un inconscio patogeno. Freud diceva dove è l'inconscio, lì dovrà aggiungere l'io, cioè l'io dovrà prendere il posto dell'inconscio, cioè la coscienza dovrà illuminare le zone dell'inconscio, perché l'inconscio, tutto sommato, è una forma di patologia, cioè è l'inconscio dovuto alla repressione, alla rimozione. Per Jung le cose stanno un po' diversamente. Cioè, l'inconscio non è solo sede della patologia, ma è anche sede della guarigione. E quindi è una visione molto simile a quella a cui noi come pianisti siamo abituati, la visione di Erickson, no? Della mosca che crede di guidare l'elefante, cioè la mosca, la coscienza crede di guidare l'elefante, l'inconscio. Allora, in particolare nel PNL umanistica abbiamo sempre presente la visione di Assagioli di tre livelli, inconscio inferiore, medio e superiore. Inconscio medio ha una zona di coscienza che è l'io, e poi l'inconscio inferiore che assomiglia di più a quello freudiano, cioè si rifà a quello freudiano, e l'inconscio superiore in un certo senso riguarda quello junghiano. Che cosa intende Jung per inconscio in questo senso? Allora, intende che nell'inconscio c'è una sapienza molto superiore alla coscienza. Quella, per esempio, quando pratichiamo l'ipnosi, l'ipnosi umanistica, noi ci rivolgiamo alla mente profonda della persona, rivolgendoci proprio a che cosa? A quella parte della persona che sa quali sono i problemi. Uno. Due. Sa anche quali sono le soluzioni. Tre. Questa parte però non è ascoltata dalla coscienza. Perché non è ascoltata dalla coscienza, dall'io conscio? Perché l'io conscio è convinto di avere ragione lui. Crede di vedere la realtà davvero. Bene, Jung sostiene, in modo del tutto sensato, che in realtà i nostri pensieri consci molto spesso sono dei pregiudizi. Quindi, l'inconscio abitato da una visione ristretta e angusta sul mondo. Ora, finché questa visione ristretta e angusta non produce dei problemi di adattamento, vabbè, andiamo avanti. Ma quando comincia a produrli, ci accorgiamo di andare incontro alla sofferenza. E qui inizia la nevrosi. La nevrosi si ha appunto quando la parte nostra cosciente crede in certe cose e il nostro inconscio no, crede in tutt'altro, crede in cose completamente diverse. Nella visione junghiana, l'inconscio, che crede cose diverse, ha una conoscenza superiore, più profonda rispetto alla coscienza. E questa conoscenza superiore si esprime attraverso i sogni, per esempio. Ok, allora leggo proprio pagina 16. Nel caso di una nevrosi, la massa di proiezioni inerenti alla propria problematica e pregiudizi aumenta in modo tale da fare che l'individuo colpito si isola sempre di più dai propri simili. È nota, no? Questo isolamento, arroccamento su se stessi. Allora, se noi andiamo a vedere cosa pensa l'inconscio attraverso i sogni, vediamo che la visione che c'è nell'inconscio è completamente diversa da quella della coscienza.